Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei dare sfogo alla rabbia e alla frustrazione che mi ha assalito ascoltando come Mastella, sentitosi in dovere di organizzare e presentarsi in una conferenza stampa, ha espresso il suo senso della moralità istituzionale, la sua visione della questione meridionale e ancora una volta ha proclamato l'onestà della sua famiglia. Mi chiedo se chi ha il privilegio di vantare una carriera parlamentare di 32 anni non debba lasciare la poltrona e ritirarsi a condurre una vita da cittadino comune. Mi chiedo se sia accettabile ascoltare un uomo politico che lamenta le difficoltà del meridione e pone quelle difficoltà a giustificazione di iniziative clientelari, quale soluzione alle difficoltà lavorative di quelle aree. E mi chiedo in questi 32 lunghi anni come ha contribuito Mastella a migliorare questa situazione che invece peggiora inesorabilmente. Mi chiedo come posso accettare che il senso delle istituzioni debba essere svilito ad una conta del numero delle raccomandazioni fatte, peraltro inferiore a quello degli avversari. Mi chiedo quando la cosa pubblica finirà di essere la cosa loro, dei Mastella e di quelli come lui, e tornerà ad essere la missione dei nostri amministratori. Mi chiedo se i nostri padri e nonni, che si sono ammazzati per dare un futuro all'Italia, potessero immaginare che il loro sangue è stato versato per questo. Mi chiedo se davvero Mastella, che sicuramente non avrà preso denaro per le sue segnalazioni nei limiti del diritto, pensa che queste siano un dovere degli amministratori pubblici e non un modo per creare bacini clientelari che condizionano le competizioni elettorali ed alimentano altri scambi di favore. Mi chiedo infine se veramente ci meritiamo tutto questo. Gabriele. Siamo un popolo di ipocriti. Stupirsi che la famiglia Mastella, come qualsiasi altra famiglia di politici, abbia fatto o faccia delle raccomandazioni è ipocrita. Nel costume italiano non si entra in un ufficio pubblico senza chiedere ad un amico di darci una mano. Non voglio giustificare né Mastella né tutti noi italiani, ma su questo costume si basa la struttura elefantiaca ed inefficiente dello Stato italiano. La burocrazia è appestata da una moltitudine di inetti ed inutili dipendenti assunti per accontentare il potente di turno. Difficile a livello giuridico e processuale è distinguere tra illecita raccomandazione e segnalazione d'assunzione, sempre e comunque deprecabile, ma non illegale negli uffici statali o parastatali. In Italia si è sempre permesso al politico di turno di usare la raccomandazione per assumere a tempo indeterminato persone del proprio staff, aumentando così il numero degli impiegati statali. Questo uso e consuetudine nei decenni ha reso la macchina statale italiana il tempio del nepotismo, rendendolo quindi inefficiente e costosissimo. E ogni volta che qualche giudice, fingendo di cadere dalle nuvole, inquisisce per corruzione un qualsiasi politico per raccomandazioni, si innesca una polemica politico-giudiziaria. Quando Mastella afferma di avere le mani pulite, non mente. Purtroppo, nel contesto italiano, lui non le ha più sporche di tutti noi. I Mastella siamo tutti noi quando entriamo in un pubblico ufficio e chiediamo un piacere all'usciere nostro amico. Per risolvere il problema, basterebbe che qualsiasi politico entrato in carica avesse la possibilità di assumere lo staff che desidera, ma solo a tempo determinato, ovvero fino allo scadere della sua carica elettiva. Inoltre, bisognerebbe nominare un gruppo di lavoro manageriale per la selezione e riorganizzazione dei dipendenti statali e per una riorganizzazione e snellimento della macchina statale. Mastella non è un santo, ma nemmeno un diavolo. Semplicemente è il prodotto di un malcostume nazionale, condito con un santo moralismo. Massimiliano. Su Facebook ogni iscritto può aprire a proprio piacimento dei gruppi. Aprire un gruppo significa pubblicare una pagina con un argomento e tutti quelli che lo condividono possono iscriversi. Il che di fatto significa mettere il proprio nome in una lista e poter chiacchierare e scambiare commenti con gli altri iscritti. Nulla di più. Se entrando su Facebook facessimo una ricerca con la parola «uccidiamo», forse avremmo un panorama più ampio di questo fenomeno. Prima sorpresa, i gruppi il cui nome inizia con «uccidiamo» sono più di 500, e parliamo solo di quelli italiani, ovviamente. Il primo della lista è un generico «uccidiamo», con 4 iscritti. Poi segue l'incriminato «uccidiamo Berlusconi», con 16.300 utenti. Il terzo però è «uccidiamo virgola», che conta 9.500 membri. Virgola è il gattino protagonista di una pubblicità. È solo un disegno animato che canta un'odiosa canzoncina. A seguire c'è «Uccidiamo Costantino», 3.500 membri. Costantino è il protagonista di una trasmissione che va in onda su Canale 5. Via via che si scende nell'elenco si trovano nomi noti e meno noti. Qualcuno propone di uccidere un proprio compagno di scuola o la propria ex. Qualcuno propone nomi come Bassolino, Mughini, Moccia, Arisa, Nedved, SpongeBob o Clippy, il personaggio che dà suggerimenti sull'utilizzo di Microsoft Word. I commenti che gli utenti lasciano all'interno dei gruppi sono molto vari e vanno dalle offese gratuite ai messaggi ironici, alle battute di spirito, ma sono dello stesso tenore in quasi tutti i gruppi. Ovviamente ce ne sono anche molto cattivi. Da questo cosa si evince? Forse che si dovrebbe mettere sotto scorta chiunque sia citato su questi gruppi? Il numero altissimo degli iscritti al gruppo anti-Berlusconi, oltretutto, si spiega col fatto che probabilmente Berlusconi non è così tanto amato dal popolo come vuole farci credere. E comunque, da quando queste notizie sono anche sui giornali, il numero degli iscritti al gruppo incrementa a vista d'occhio, proprio a causa dell'enorme pubblicità che gli fanno. Giuseppe. Riguardo alla polemica tra Eugenio Scalfari e Ferruccio De Bortoli circa l'atteggiamento di quest'ultimo e del suo Corriere della Sera verso Berlusconi e il suo governo, penso abbia ragione Scalfari e spiego il perché. Berlusconi sbaglia ad accusare il Corriere della Sera di ostilità nei suoi confronti, perché quel giornale è sempre stato molto moderato nel commentare sia i provvedimenti del governo sia le vicende personali del nostro premier. Ma sbaglia anche De Bortoli a voler dimostrare a tutti i costi la propria imparzialità con il tono preoccupato tipico di chi si sente in pericolo. Mi chiedo allora se per il direttore del Corriere la funzione della libera stampa debba essere intesa come l'obbligo di essere equidistante, cioè di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, o piuttosto, come io credo, quella di essere la sentinella contro gli errori o gli abusi di chi è al potere per indurlo a correggersi. E sulla persona di Berlusconi come si fa a non essere aspramente, pesantemente critici come La Repubblica giustamente fa? È stato eletto democraticamente, certo, ma ciò non significa che possa fare ciò che vuole e tantomeno cercare di sovvertire, di fatto prima che di diritto, le nostre istituzioni repubblicane. Non ha forse fatto le leggi ad personam? Non è forse portatore di un conflitto di interessi grande come una casa? Non ha forse messo al bando giornalisti a lui sgraditi? Non ha forse giustificato gli evasori fiscali? Non ha forse portato a Palazzo Grazioli, che è sede istituzionale, delle prostitute usufruendo delle loro prestazioni? Non è forse stato protagonista in campo internazionale di memorabili gaffe nei confronti di capi di Stato e di governo stranieri? Non è stato forse riconosciuto, con sentenza, che l'avvocato Mills ha ricevuto denaro da Fininvest per testimoniare il falso? Non è stato forse riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, che Previti, il suo fido avvocato, ha corrotto un giudice nella vicenda Mondadori? E allora, chiedo a De Bortoli come fa un giornale libero ad essere tiepido ed equidistante nei confronti di un personaggio simile, che, come si è visto, non si accontenta proprio mai. Credo che la critica aspra a un simile presidente del Consiglio sia un dovere. Mi sento vicino a Scalfari, Santoro, Travaglio e quanti altri hanno il coraggio di mettere in mostra gli scheletri nell'armadio di chi ci governa. Egidio Sondrio. Caro Egidio, partiamo da un presupposto. L'Italia è un paese libero e quindi è del tutto possibile essere, come lei, fieramente contro l'attuale governo, ma deve essere altrettanto possibile essere a favore, così come mantenere una posizione critica su alcuni interventi e positiva su altri. Se questo è valido per i cittadini, altrettanto deve essere valido per i giornalisti. Si può essere giornalisti schierati, si possono avere giornali di partito o di area politica, ma deve essere altrettanto possibile scegliere altre strade, difendere un'indipendenza di giudizio, non sposare a priori una tesi o uno schieramento. Vede, caro Egidio, quello che mi trova profondamente in dissenso nella sua lettera è quando lei dice che criticare il Presidente del Consiglio è un dovere e chi non lo fa sbaglia. No, non trovo che sia per nulla costruttiva questa visione manichea e autoritaria dell'informazione. Tutti noi possiamo scegliere il giornale che preferiamo, ma non abbiamo nessuna ragione di pretendere che tutti i giornali si schierino sulle stesse posizioni. Sarebbe un appiattimento dell'informazione, oltre che una noia mortale. Penso che nell'informazione, così come nella politica, bisognerebbe privilegiare il dialogo, il dibattito, il confronto, piuttosto che le battaglie ideologiche e le guerre ad ogni costo, anche per rispetto di una democrazia che è fatta di idee diverse e di interessi collettivi. Sono convinto che il Paese avrebbe tutto da guadagnare se si riuscisse a ricostruire un clima di collaborazione e di solidarietà. Thank you. Caro direttore, il degrado sociale che viviamo, sotto certi aspetti già preconizzato da Pasolini negli anni 70, è anche figlio di modelli culturali e comportamentali che il nostro sistema di sviluppo economico ha strumentalmente promosso. In quanto tale, non riguarda solo Napoli o il Sud, ma tutta l'Italia. Il caso Napoli e la moderna questione meridionale sono da iscrivere nel più generale fatto nazionale, di cui la degenerazione della politica a mercimonio e affare personale e clientelare costituisce sia una conseguenza rilevante che una concausa e un pericoloso paradigma. Sono, per origini e per scelta, napoletano. Nutro verso Napoli e la sua storia, il suo popolo, un sofferto sentimento di amore e odio. Ho nostalgia per quell'armonia perduta di cui mirabilmente scriveva Raffaele La Capria. Rivendico con orgoglio la mia napoletanità, pensando agli intellettuali che diedero la vita per la Repubblica Partenopea del 1799, a Gaetano Filangeri, a Matilde Serao, a Edoardo Pansini e ai cittadini che insorsero contro il nazifascismo, a Edoardo De Filippo, a Don Giuseppe Diana, a Roberto Saviano, all'alto impegno civile e culturale di quanti animano l'attività dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell'Assise di Palazzo Marigliano. Di loro, e di tanti altri, mi sento orgogliosamente figlio e concittadino. Le lettere che leggete, e di cui a volte condivido le analisi, sono anche testimonianza del fatto che esistono tanti giovani che di quei nobili esempi potrebbero essere degni epigoni. Il risalto e l'attenzione che alle loro parole lei, direttore, e la sua radio date possono contribuire a far sì che quei giovani diventino massa critica sufficiente a realizzare nella società il cambiamento che auspichiamo. Gaspare. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.